100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il gruppo Fiat continua ad essere una storia a sé nel panorama dei grandi gruppi automobilistici mondiali. Mentre di solito il mercato di borsa reagisce con acquisti e vendite ai dati di bilancio, ai profitti, ai ricavi e soprattutto allo sviluppo dei nuovi modelli e agli investimenti, nel caso dell'ex gruppo torinese è Sergio Marchionne il vero motore dell'andamento del titolo. Il balzo di quasi il 5% registrato in borsa proprio ieri dopo l'intervista che ha rilasciato l'amministratore delegato della Fiat al Financial Times lascia infatti pensare che la grande scommessa del mercato su un futuro ancora più straniero di oggi per il gruppo Fiat potrebbe presto concretizzarsi. Per quale motivo? Perché in America il gruppo General Motors è in un momento di grande confusione. Come vi ricorderete, la GM è stato un partner potenziale della Fiat per tanti anni. La GM aveva il 20% della Fiat e la Fiat aveva circa il 5%. Poi, 15 anni fa, le nozze naufragarono e ognuno prese la sua strada. Adesso il mercato torna a scommettere su un'unione proprio fra la Fiat e la General Motors. Ma per quale motivo? Perché dei cambiamenti nella casa di General Motors, ovvero l'ingresso di grandi operatori finanziari nel consiglio di amministrazione, operatori finanziari che sono proprio favorevoli a una fusione del gruppo GM con un competitor, hanno rialimentato le speranze che proprio quel partner sia Fiat. Il titolo Fiat che, come dicevamo, continua ad essere quello proprio più gettonato sulla base delle parole di Marchionne più che sui risultati di vendita. Più 19% l'andamento del titolo dall'inizio dell'anno, addirittura più 40% se misurato nell'arco dei 12 mesi. Per il mercato di borsa, insomma, Fiat è il prossimo candidato ideale. Ma perché proprio oggi se ne riparla? Se ne riparla perché è stato lo stesso Marchionne a lanciare in un'intervista una grande provocazione. Fiat è pronta a una fusione e se General Motors vuole siamo pronti a dialogare. Più chiaro di così? Ora bisognerà vedere se le trattative si concretizzeranno, si partiranno a breve o se bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di sapere se il partner americano di Fiat è veramente sul tavolo della borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.